a te. Ho visto andare tutto in fiamme, la nostra storia è quel che c'è. Tu li ferma sulle gambe, continui a chiedermi, continui a chiedermi, continui a chiedermi perché. Questa non è una storia facile, e chi racconta di bugie spalmate sulle poche asciutte. Prova a smettere per poco, nel fumo tu non ridere. Trovo la faccia e sai che scopro che non è affatto semplice. Spiegarti che ho mandato in fiamme il nostro mondo e le tue bambole, ma tu sorridi sulle gambe, continui a chiedermi perché. Questa non è una storia facile, c'è chi racconta di bugie spalmate sulle poche asciutte. Questa non è la nostra storia semplice, tra 100.000 favole si scrive senza lieto fine. E tu non ridere, sapessi farlo ora io sarei tuo complice. Soffiando sulle fiamme non si può spegnere, quello che brucia intorno a noi non è salvabile. Lo avessi fatto prima, avremmo il tempo ancora di rimediare ad ogni sbaglio con un'altra storia. Una più semplice, una più facile, ma non è colpa mia se per noi questo è vivere. Storia facile, non ho più voglia di bugie spalmate sulle poche asciutte. Questa non è la nostra storia semplice, tra 100.000 favole si scrive senza lieto fine.